Zolt. Fulminati in azienda. Carissimi ascoltatori, bentornati all'Isola dei Bramosi. Stiamo cercando, attraverso un simpatico gioco, di eliminare almeno un dirigente della nostra azienda a colpi di nomination. Riusciremo a liberarci finalmente di qualcuno? Scopriamolo insieme nella puntata di oggi. Cari colleghi, la funzione del personale ha rilevato che non siete in grado di capire che qui sull'Isola dei Bramosi servono altri atteggiamenti per sopravvivere e riuscire a mangiare. Atteggiamenti di squadra, atteggiamenti positivi. Ed è per questo che sta per arrivare in elicottero il nostro coach Donald Jump per una sessione speciale di team building. Allora ragazzi, fate spazio perché devo atterrare. Eccomi con voi per questa sessione speciale di training qui sull'Island, l'isola dell'irreality. E ora le regole delle tre ere: se non troverete da mangiare sull'isola è solo noccioline americane. Tutti insieme, resistere, raggranellare, rosicchiare. A Donald, non chiedermi di buttarmi dall'albero per fare il gioco da fiducia con i colleghi che mi raccolgano, perché io sull'albero non mi ci arrampico. Bravo, centri, fiducia, trust, è l'ingrediente fondamentale, ma per sopravvivere tu devi darti obiettivo. L'obiettivo mo so deato, il mio obiettivo è portare a casa la pelle, Donald. Wrong. L'obiettivo deve essere alto, nobile. Scusi, coach, ma non è che per caso sull'elicottero ce li ha portati i sigari che avevo chiesto al mio amico carissimo del servizio elicotteristico transoceanico? No, wrong. La porta a cogliere questa occasione per smettere di fumare, no smoking, e darti un obiettivo in positivo. Ma io sono in astinenza, signor Jump. Rischio alla vita. Se tu smetti di fumare sull'isola, devi pensare in positivo a quanta salute guadagnare e farti sostenere dal team. Dai, la porta, devi solo crederci, vedrai che ce la fai. Tu, Fonza, no, che obiettivo challenging ti sei data qui sull'isola, The Island? Allora, diciamo che io volevo promuovere un servizio pronto subito che promette a tutti di ricevere una noce di cocco entro 24 ore e poi con una tessera fedeltà noce amica che dopo la 20ª noce in consumo si riceve un servizio di foglie a forma di tovagliette. Che ne pensi? Sì, è un servizio reclami con call center dei reclami per noci di cocco poco saporite. Ed ora sentiamo le nomination di oggi. Io nomino la porta perché è una vita che mangia pane a tradimento, sottraendo risorse all'isola. O lavora o va a casa. Ecco, io credo che in una logica di downsizing emerga chiaramente l'inutilità sull'isola e anche in azienda, ecco, se posso dirlo, di uno come la porta. Ecco, che non incarna alcuna skill significativa per la comunità, voglio dire, inutile. La mia nomination? La porta. Non litiga con nessuno, non movimenta il reality show, non fa audience e poi è grigio. La porta deve andare a casa. Si è fatto costruire una capanna di bambù di rappresentanza che è grande come mezza isola e poi non fa niente, è inutile. Mi son giorni che tiro su bambù per farghe la capanna di rappresentanza sulla porta. O el va a casa o mi ghe dago fogo alla capanna. Io ho deciso di nominare me stesso perché altrimenti sembra che io sia fuori dai giochi di potere dell'isola. E bisogna dare un segnale. Amici ascoltatori, abbiamo finalmente il nome del vero e unico eliminato dall'Isola dei Bramosi. Apriamo la busta. Ecco qui. Attenzione, con il 100% delle nomination, la porta. La porta, ma quanto mi dispiace, sei stato... Marta, è inutile fare l'ipocrita, se c'è il 100% delle nomination, pure tu pensi che la porta sia inutile, no? E quindi deve tornarsene a casa. È giusto, a casa. Cari colleghi illustrissimi, io sono profondamente rammaricato per questa vostra decisione, ma nel pieno rispetto delle regole democratiche rinunzierò alle mie responsabilità e lascerò l'isola. Bravo la porta, bravo, finalmente qualcuno che anche da noi dà le dimissioni una buona volta. Direttore, sul pezzo c'è una telefonata in trasmissione per lei, ecco, si metta all'auricolare e passiamo la telefonata all'isola, grazie. Sì, pronto, pronto. Onorevole, ah, buongiorno. Anche lei segue la nostra trasmissione da casa, bene, bene. Come dice? La porta? Ma no, onorevole, si figura, mancherebbe altro, ma era un gioco, uno scherzo. Ma certo, a me, cioè la porta è essenziale per la riuscita del programma, ma certo, ma certo. No, no, no, no, capisco, non si preoccupi, rimarrà qui con noi sull'isola, a risentirci. Ma come, anche sull'isola valgono le raccomandazioni? Ma no, ma mica sono raccomandazioni, diciamo che sono aiutini da casa. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.